sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del vertice in corso dei ministri economico-finanziari a Istanbul, ci sono anche i banchieri centrali e il G20, si discute chiaramente di Grecia, molto di Grecia. Domani vi sarà tra l'altro la riunione straordinaria dell'Eurogruppo, quindi dei ministri economico-finanziari dell'area euro, dedicato proprio ai rapporti con Atene, ma oltre che di Grecia, abbiamo anche delle voci raccolte da lì, c'è un tema che riguarda principalmente l'Italia, nel senso che il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, a margine del G20, ha detto: attenzione, l'Italia sta accelerando come PIL, nel 2015 tutta l'area euro sarà in crescita positiva, e devo dire che va in questa direzione anche il dato diffuso oggi dall'Istat sulla produzione industriale a dicembre, che ha fatto un più 0,4 rispetto a novembre e un più 0,1 rispetto a dicembre 2013. Già la cifra dà la marginalità di questa crescita. Un più 0,1 è veramente presto per parlare di una crescita che si sta consolidando, ma da questo punto di vista, anche perché poi la produzione industriale nel 2014 complessivamente dato è calata dello 0,8%, terzo anno consecutivo in cui la produzione industriale è calata, devo dire che la stima di Confindustria oggi di un più 0,2% a gennaio come produzione industriale, restano le incertezze sullo sfondo che potrebbero rovinare questo scenario roseo, e si chiamano, sono variabili internazionali, chiaramente si chiamano Grecia da un lato e poi tutto il conflitto in corso in Ucraina e soprattutto le pieghe, lo sviluppo che potrebbe prendere braccio di ferro tra Stati Uniti e Unione Europea da un lato e Russia dall'altro. C'è anche il rapporto di cui parleremo di Prometeia Intesa San Paolo sul 2015, sui distretti industriali, sul 2015 come anno di ripresa grazie alla spinta dell'euro, all'intervento della Banca Centrale Europea e il petrolio. Sono tutte variabili che stiamo citando da settimane, e oggi anche il numero uno della Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a New York ha detto: nel 2015, dopo 6-7 anni di mercati distrutti, ricomincerà il ciclo economico, bisogna cercare di non giocarselo male, se ce lo giochiamo bene il 2015 sarà un grande anno. Allora, sono tutti elementi ancora, sono tante rondini, diciamo così, che però non permettono ancora di dire che è arrivata la primavera, se vogliamo usare questo esempio. Tra queste cito anche oggi la forte ripresa dei mutui delle famiglie per l'acquisto della casa, una ripresa che è già avvenuta nel 2014, più 32% i nuovi mutui accesi nel 2014, cioè 25 miliardi di euro di mutui complessivi erogati contro 19 del 2013. C'è una componente che deriva da rinegoziazioni, quindi mutui già esistenti che vengono ridefiniti e rinegoziati e appaiono come nuovi mutui ma non lo sono in realtà, che è pari al 18%. Sono anche in netta crescita i mutui a tasso variabile, sono cresciuti del 77%, perché si ritiene, insomma, che evidentemente i tassi resteranno probabilmente o caleranno ulteriormente o restando bassi a lungo, se c'è un ragionamento di questo tipo dietro. Questo per quello che riguarda lo scenario italiano e per quello che riguarda appunto le prospettive sull'economia. Poi c'è il tema con cui apriremo, della corruzione. Questo è un tema assolutamente italiano. L'allarme lanciato oggi dal Presidente della Corte dei Conti nella sua relazione annuale è definita devastante per la crescita. Ricordo che secondo la Commissione Europea la corruzione vale il 4% del PIL italiano, circa 60 miliardi di euro. È tanto o è poco? È tantissimo, perché sempre secondo la Commissione Europea metà della corruzione a livello europeo ce l'ha l'Italia, cioè il valore complessivo è 120 miliardi, di cui 60 in Italia. Ora è chiaro che noi abbiamo anche il poco invidiabile primato di avere 'ndrangheta, camorra e mafia operanti al sud e operanti molto, come dimostrano le inchieste, in Lombardia e in Emilia Romagna, anche al nord. Giusto per citare le ultime, ma purtroppo crescono anche le aziende che operano in un contesto corrotto e sono, tra l'altro, fa notare la Corte dei Conti che chi opera in un contesto corrotto ha una crescita del 25% inferiore a quella che opera nella legalità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che fare impresa nelle zone ad altissimo tasso criminale significa fare impresa non solo con maggiore difficoltà e con rischio della vita alle volte, ma anche avere una penalizzazione di quasi un quarto rispetto a chi fa impresa in un ambiente, diciamo, corrotto, un poco corrotto, non corrotto o corrotto a livello fisiologico, per non essere delle mezze vergini. La corruzione fa diminuire anche gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo degli appalti. Di questo parleremo. Infine, come sempre, anche la borsa. Oggi, come spesso facciamo, avremo ospite un operatore dei mercati. La borsa guadagna in questo momento a Milano l'1,30%, guadagna lo 0,40 a Parigi, lo 0,30 a Francoforte e perde lo 0,45 a Londra. L'America più 0,26%. Tra i titoli segnalo molto forte oggi Telecom Italia più 4,60% e poi Mediobanca più 4,50. Intesa San Paolo, che ha pubblicato i conti, il dividendo va a 1,2 miliardi, gli utili che verranno ridistribuiti su un utile complessivo di 1,7 miliardi. Per le azioni ordinarie la cedola sarà di 7 centesimi, per quelle risparmio di 8,1 centesimi. Il numero 1 Carlo Messina ha confermato l'obiettivo di 2 miliardi di dividendi per il 2015, e quindi un utile più alto rispetto a quello dell'anno scorso e anche una distribuzione dei dividendi più alta. Ha smentito ipotesi di acquisizioni e ha confermato che a Intesa San Paolo non interessa una bad bank che non abbia vantaggi significativi, per cui l'aveva già confermato, devo dire, nel corso del Forex, mentre altri la chiedono. Monte dei Paschi, ma anche Unicredit non è contraria. Intesa San Paolo ha detto: no, noi siamo già bravi nella gestione dei crediti deteriorati, non abbiamo bisogno di una banca cattiva dove far confluire questi crediti. Ancora, per quello che riguarda i titoli, stavo leggendo, oltre a Intesa San Paolo, Salvatore Ferragamo più 3,5, Fiat Chrysler più 3,20, ST Microelectronics più 2,80, Atlantia più 2,70, Jux più 2,60, UbiBanca più 2,5, Finmeccanica più 2,20. Chi perde? Tenaris meno 3,40, Saipem meno 1,90, Eni meno 0,80, Buzzi Unice meno 0,50 e la Pop Emilia Romagna meno 0,40%. L'euro è sempre fermo a quota 1,13 sul dollaro, e visto che siamo in tema di mercati citiamo anche il petrolio, che oggi è sceso ma è rimasto sopra, parlo del WTI americano, sopra i 50 dollari, è sceso di quasi il 3% a 51,3 dollari al barile. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo proprio dal petrolio, perché oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel suo rapporto di medio termine sul mercato petrolifero, sottolinea che i rischi politici per l'offerta di petrolio, sia a rialzo sia a ribasso, resteranno straordinariamente elevati nei prossimi anni, dopo anni di disordini nelle regioni ricche di greggio del Medio Oriente e del Nord Africa. Però, continua sempre l'AIE, i prezzi non torneranno nel breve termine a livelli elevati, il mercato si riprenderà solo dopo un taglio degli investimenti, nel senso che molte grandi compagnie petrolifere stanno annunciando, lo abbiamo raccontato, tagli negli investimenti pianificati perché non sono più convenienti, con un prezzo del petrolio intorno ai $50 al barile. Messaggi sulla Grecia, sì, adesso vi arriviamo. Oggi, da quello che si è capito, il governo greco sta preparando per l'Eurogruppo di domani un pacchetto di 5 punti per raggiungere un accordo con i partner europei. Il pacchetto comprenderebbe anche un programma ponte sino alla fine di agosto e non più fino a fine maggio, e l'abolizione di circa il 30% del memorandum e la sua sostituzione con un pacchetto di 10 riforme da preparare in collaborazione con l'OCSE, il cui segretario Gurria arriva oggi ad Atene per vedere il ministro delle finanze, ormai celebre, ormai una star, Yanis Varoufakis, nonché anche il premier Alexis Tsipras. Poi ascolteremo anche l'opinione di chi gestisce il debito di Atene per conto della banca Lazard. Si chiama Pigas, Mathieu Pigas, e ha detto sostanzialmente che la cancellazione di 100 miliardi di euro di debito della Grecia permetterebbe al paese di tagliare il fardello del debito in linea con i target indicati dalle autorità internazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un obiettivo ragionevole per fare anche per non soffocare e schiacciare la Grecia sotto un debito che altrimenti non riuscirà mai a ripagare, inutile girarci attorno. Ed è inutile continuare, lo dico chi mi scrive, ma i patti, pacta sunt servanda, i patti vanno rispettati. Attenzione, non è così che funziona la storia, poi uno può raccontarsela. Ecco, vedo chi mi scrive il solito ritornello sulla Germania. Glielo faccio subito il ritornello sulla Germania, perché nel 1953 tutti i paesi creditori della Germania, incluso Atene, si misero d'accordo per cancellare il debito o parte del debito tedesco, nonostante ci fossero accordi per pagarlo. E ne riparleremo anche più avanti, per cui non è vero che dal punto di vista internazionale gli accordi devono essere rispettati come tavolo della legge. La Germania fu il primo paese nel dopoguerra ad avere uno sconto enorme del 50%, se non ricordo male, sui famosi debiti di guerra. Dovrebbero ricordarselo. Ora, qui nessuno vuole dire che Atene non debba ripagare per gli errori commessi della sua classe politica e quant'altro, però insomma in maniera ragionevole, no? Sennò un credito, se diventa non più pagabile in banca, si chiama inesigibile, no? Si deteriora e diventa una sofferenza. Se vogliamo far diventare i debiti greci una sofferenza, siamo sulla buona strada. La pensa così e continua a pensarla così anche la Casa Bianca, perché il segretario al tesoro Jack Lew e il vice premier turco Ali Babacan nel corso del G20 hanno detto e hanno invitato l'Unione Europea, oltre che Atene, ad essere pragmatici, vuol dire realistici in questo caso, perché insomma, non si può arrivare a un accordo che non tenga, come dice Jack Lew, che non tenga in considerazione quella che è la reale situazione del debito greco e la reale possibilità che ha la Grecia di ripagarlo. Per la precisione, così faccio contento l'ascoltatore, nel 1953 la Germania ottenne una rinegoziazione del suo debito di guerra che valeva a quel punto 23 miliardi, stiamo parlando del 1953, 23 miliardi di dollari. Le tre potenze vincitrici, ma anche i paesi diciamo occupati dai tedeschi, tra cui la Grecia, si misero d'accordo per cancellare il 50% del debito, mentre gli altri 11 miliardi si misero d'accordo perché venissero restituiti in 30 anni. Era infatti insostenibile quel debito per una Germania che tentava di risollevarsi economicamente, no? Ed era stata già bastonata, punita giustamente per l'esito della guerra, ma non si volle umiliarla, e questa è la differenza, e né soffocarla con i debiti. Quanto è breve la memoria in Germania, eh? Poi di che debito parliamo? Perché insomma non sono i 23 miliardi del 53, il debito greco obiettivamente ha delle stime molto molto più basse, e tra l'altro la Germania è esposta per 60 miliardi, la Francia per 46, l'Italia per circa 40 miliardi. Vabbè, dicevamo già dell'ABI, vorrei adesso venire alle notizie sull'Italia, poi torneremo anche al bilancio d'Intesa e alle prospettive sulla crescita. Due notizie buone. La prima riguarda i prezzi delle RC auto, delle polizze auto. Ne abbiamo parlato col direttore generale dell'ANIA, dell'associazione che riunisce le compagnie di assicurazione, poche settimane fa. Allora, secondo i dati dell'ANIA, lo scorso anno il costo delle polizze RC auto, che resta il più alto in Europa, però è diminuito del 6%, passando da 437 a 411 euro per veicolo. In due anni i prezzi medi delle polizze RC auto si sono ridotti del 10%, e si è ridotto anche il differenziale con l'Europa, nel senso che il margine, se nel 2008 la differenza era sostanzialmente di oltre 213 euro con le polizze RC auto in media in Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna, adesso la differenza è scesa a 177 euro. Prevedo già l'obiezione: è sempre una bella differenza su 411, 177 euro rispetto alla media degli altri paesi europei, però è sempre meglio che 213, mettiamola così. E buona notizia anche per Alitalia, che è tornata a volare dopo oltre 20 anni in Corea del Sud, ed è una meta importantissima nelle aree emergenti, o meglio nel caso della Corea bella che è emersa. Quindi vi sarà il nuovo collegamento Roma-Seul dal 4 giugno, e dal 1 maggio partirà anche il collegamento non stop Milano-Malpensa-Shanghai, e che sarà effettuato durante tutta la durata dell'Expo, quindi dal 1 maggio fino alla fine di settembre. Entro l'anno, sempre l'Italia ha comunicato che tornerà anche a volare su Pechino con un volo diretto da Roma. Sono buone notizie, perché molte volte abbiamo commentato l'errore di Alitalia di abbandonare le rotte lunghe e di regalare traffico a Lufthansa, Air France o altre compagnie aeree, anche internazionali, Qatar, Emirates, e l'impossibilità per molti businessmen o per molti turisti di arrivare direttamente dalla Cina, in questo caso, o dalla Sud Corea, e in Italia, con la conseguenza non solo che si avvantaggiavano altre compagniere, ma che quando si parla di turismo, e non di turismo d'affari, ma turismo in senso stretto, gli acquisti, si sa, vengono fatti nei primi posti, quindi i turisti cinesi, indiani, coreani arrivavano in Italia praticamente a acquisti già fatti, quindi magari compravano beni italiani, ma li compravano in Francia, in Germania, l'IVA la pagavano lì, e il grosso, diciamo, del valore aggiunto veniva lasciato in quei paesi. Per cui insomma ben venga sia il Milano Malpensa Shanghai che il Roma Pechino che il Roma Seul. E visto che parliamo dell'importanza di avere anche rotte aeree se si vuole lavorare con questi mercati, uno dei momenti più importanti in cui il Made in Italy mostra se stesso è quello del Salone del Mobile di Milano. Quest'anno non andrà in sovrapposizione con Vin Italy, ne siamo molto contenti, anche perché è un altro degli assurdi di questo paese. Due importantissimi eventi, quello del vino e dell'olio, il Vin Italy, e quello del Salone del Mobile, andavano spesso in contemporanea come date. E invece quest'anno, dal 14 al 19 aprile, vi sarà il 54esimo Salone Internazionale del Mobile, che è la fiera di riferimento mondiale per il legno, per l'arredo, il design, il legno arredo. 300.000 visitatori da più di 160 paesi, 2010 espositori, 200.000 metri quadrati l'area espositiva, e per un settore, il legno arredo, quindi mobili e tutto il resto, che ha un fatturato di quasi 27 miliardi di euro e ne esporta il 50%, 13 miliardi, 66.000 imprese, 360.000 addetti, che se si guarda l'indotto salgono a 650.000 euro. Su questo e anche sull'andamento del mercato domestico, il presidente di Federlegno Arredo, Roberto Snaidero, al microfono del nostro Adriano Palazzolo. L'Italia, per quanto riguarda il mercato domestico, ancora, devo dire, non è crisi, ma perlomeno abbiamo col bonus mobili fermato un po' la discesa, la caduta di questa situazione, mentre sull'export siamo ancora in crescita in tutti i paesi. Il Made in Italy è un marchio che corre dei rischi con la concorrenza internazionale. Quali sono i mercati che possono danneggiarlo e quali le strategie che si possono adottare? Noi abbiamo tanti competitor che vengono dall'Estremo Oriente, vengono dall'Europa stessa, dall'Europa dell'Est, quindi ogni giorno dobbiamo combattere contro questi competitor che tante volte si comportano anche slealmente nei nostri confronti. Questa è la realtà delle cose. Per quanto riguarda l'esportazione, siamo nel mercato degli Stati Uniti e teniamo conto anche di quello che è il rapporto euro-dollaro che si sta verificando in maniera molto positiva per il nostro settore. Tenga conto che noi esportiamo oltre il 60% del nostro prodotto, quindi esportiamo in tanti paesi legati al dollaro. Quindi euro-dollaro chiaramente ci dà una grossa mano, quindi Stati Uniti più 10%. Abbiamo anche la Cina che l'anno scorso ha avuto un 35% in più di esportazione rispetto al 2013. Ecco, questi sono i mercati sui quali stiamo investendo come federazione e queste sono le nostre forze. La previsione per il 2015? Previsione per il 2015, ulteriore crescita sul mercato esteri. E sul mercato interno spero di arrivare su 1.5 in più, però tenga conto che negli anni passati, dal 2009 al 2013, abbiamo perso circa 35-40% del mercato interno. Allora, andiamo verso il primo tema, la relazione annuale della Corte dei Conti, la corruzione, che mi permette anche, l'allarme sulla corruzione devastante per la crescita, che mi permette anche di rispondere a un ascoltatore che dice: Barisoni, prima ti occupi di sprechi, aggiungo io, della pubblica amministrazione, degli enti locali, e possiamo aggiungere anche della corruzione, e poi te la prendi con i tedeschi, fai pace con il cervello se lo trovi, vabbè, a parte il fatto che l'ultima parte non so se ce la farò, ma guardi che il problema per non portare il cervello all'ammasso è proprio questo, e cioè si può tenere assieme una critica a questo paese, agli sprechi dei suoi enti locali, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, adesso ha bloccato anche Bari, si è mossa, noi ne parliamo, ne scrivono i giornali, poi qualcosa si muove, si è mossa anche la Digos a Bari. Degli sprechi sulle consulenze, del numero di forestali in Calabria, di tantissime cose di cui parliamo, si può parlare di questo e quindi criticare l'Italia e allo stesso tempo criticare anche una politica economica europea, o meglio dell'area euro, fallimentare, masochista, col paraocchi che porta al rigor mortis, che ha messo l'area euro unica al mondo in una seconda stagnazione / recessione economica, unica area al mondo a parte il Giappone che da tempo ci convive, che è in deflazione perché i consumi interni sono appiattiti se non distrutti, dove la disoccupazione in molti paesi è record. Cioè si possono tenere assieme due cose, è come dire a uno studente: tu fai i compiti perché stai sbagliando, Italia, ma allo stesso modo il programma di studio, il piano, deve essere fatto in modo tale da uno che sta già ripetendo o che sta già recuperando quanto non ha studiato, per non massacrarlo, ok? Lo farebbe qualunque insegnante che abbia come obiettivo portare il maggior numero di alunni all'anno successivo. O decidiamo che alcuni restano nell'euro, altri no, ma poi tutti tutti prendono paura alla sola ipotesi che la Grecia possa uscire dall'euro. E allora, visto che la classe deve stare assieme per ora, facciamo in modo che tutta la classe arrivi l'anno prossimo. Chi ha studiato poco vada a ripetizione, studi di più, ma gli si dia anche il tempo e un programma per studiare, cosa che la Germania e la Grecia non ha dato. Se la Grecia dovesse rispettare quanto chiede la Troica, non c'è una possibilità per un'economia come quella greca di ripagare quel debito. Poi possiamo raccontarcela come vogliamo, ok? Ma se tu devi a una banca 100.000 euro e ne guadagni 1.500, capito? È stato sbagliato prestarti quello che vuoi e te ne servono 1.400 per vivere, come fai a chiedere un rientro, poni, di 500 euro al mese? È follia pura, questo salta per aria e poi fallisce e diventa insolvente, così il tuo debito o il tuo credito, per meglio dire, non lo rivedi più. Allo stesso modo c'è un ascoltatore che mi dice: come fa a paragonare i debiti di guerra della Germania con la truffa della Grecia? No, sono sempre debiti, uno, ed erano 23 miliardi di dollari, non di lire, quelli della Germania. Ha ragione, non sono paragonabili, perché i debiti di guerra della Germania avevano creato milioni di morti e una guerra in Europa. La Grecia ha truccato dei conti per entrare nell'euro, se li è visti certificare da un'importantissima società di un'importantissima banca d'affari come Goldman Sachs. Nel frattempo le banche tedesche le prestavano i soldi, se no col cavolo che facevano 60 miliardi di crediti, e gli vendevano pure i sottomarini e partivano pure le tangenti della Siemens, ok? Allora, sono due cose molto diverse, ha ragione, molto più gravi i debiti di guerra della Germania. L'allarme della Corte dei Conti, basta con la Germania. Però vedi, se serve parlare degli sprechi delle enti locali ogni giorno, magari servirà anche parlare della Germania ogni giorno. All'allarme della Corte dei Conti sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio Dimensione Suono. Oggi la volta del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Crisi economica e corruzione vanno di pari passo, lo dice la Corte dei Conti, cioè l'organo previsto dalla Costituzione che esercita il controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Il presidente della Corte, Raffaele Squitieri, durante l'apertura dell'anno giudiziario non solo ha ribadito come la corruzione abbia effetti devastanti sulla crescita economica, ma anche che il malaffare può compromettere la stessa speranza di tornare a crescere. I fatti di queste settimane, a partire dall'esplosione dell'inchiesta Mafia Capitale, non indicano forse una correlazione diretta tra la crisi e la corruzione. Tuttavia, in queste settimane ognuno di noi ha toccato con mano quanto l'illegalità sia diffusa e quanto sia dannosa per la collettività, con un pericolo ulteriore, ovvero che tra la gente possa a un certo punto prevalere una sorta di rassegnata assuefazione ai disonesti, come una malattia senza rimedi e contro la quale nessuno può fare nulla. L'allarme della Corte dei Conti giunge proprio mentre governo e Parlamento sono impegnati in una riforma che promette di inasprire le pene per i reati di corruzione e anche sul falso in bilancio. È un intervento che ha convinto anche Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. Ora bisogna dimostrare nei fatti che questa è davvero la direzione giusta per contrastare i disonesti e dare una risposta anche al richiamo giunto dal presidente Mattarella, che considera la lotta alla mafia e la lotta alla corruzione priorità assolute. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. A 7:41 minuti di nuovo in diretta. Nel frattempo, mentre c'era il meteo e la pubblicità, sono uscite alcune agenzie proprio sul tema che tratteremo una seconda ora, quindi Grecia, Germania. Allora, Schäuble, il falco tedesco, ministro delle finanze, al G20 di Istanbul: un piano di concedere 6 mesi alla Grecia è un errore, riferendosi all'ipotesi di un programma ponte per dare più tempo alla Grecia. E poi gli ha fatto eco il presidente della Bundesbank. Non ho mai capito se sia più falco Bundesbank o più falco Schäuble. Sicuramente nessuno dei due è un'aquila, mettiamola così. Dicevo, Weidmann, intervenuto al G20 di Istanbul, ha detto che il piano di salvataggio della Troika, quello che la Grecia non vuole accettare più, è la base per ripristinare la deroga sui titoli di Stato spazzatura e permettere così la BCE di poterli accettare. Nel frattempo c'è il comunicato finale del G20 in cui si parla di ripresa lenta, specie in Giappone e in area euro, e dopo le parole di Schäuble il nostro spread è tornato sopra i 130 punti, era 122 punti, nulla di preoccupante, però un piccolo segnale. Il BTP a 10 anni italiano adesso rende l'1,67%. Allora, Raffaele Squitieri è il presidente della Corte dei Conti, come ricordava già il commento del nostro Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, e oggi ha detto: attenzione, c'è un circolo vizioso tra crisi e illegalità. Una causa l'altra, ma la corruzione è devastante per la crescita. Il perdurare a lungo di condizioni di bassa crescita, se non di stagnazione, oltre a moltiplicare le difficoltà di gestione del bilancio pubblico, predispone un terreno favorevole a fenomeni di mala gestione e di corruzione. Crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso nel quale l'una è causa dell'effetto dell'altra. La ricerca talvolta affannosa di strategie di uscita dalla crisi e la competizione esasperata per l'accesso a risorse limitate favoriscono infatti la pratica di vie illecite e di attività illegali. Solo un contesto istituzionale segnato da legalità, buona e contenuta legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, pubblica amministrazione efficiente ed un servizio di giustizia celere ed erogatore di tutele effettive è in grado di favorire l'imprenditorialità e di rimuovere le rendite di posizione e le restrizioni alla concorrenza. Allora, Vincenzo Miglietta ha seguito oggi tutto il nostro Vincenzo Miglietta, tutta la relazione del Presidente della Corte dei Conti. Buonasera Vincenzo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, faccio notare, lo dicevi in apertura, che secondo la Commissione Europea noi abbiamo metà di tutto il valore della corruzione europeo, 60 miliardi su 120, una corruzione che in Italia vale il 4% del PIL. E già ricordavo come è dimostrato che le aziende che purtroppo operano in contesti corrotti, quando non se ne avvantaggiano e quindi sono corrotte loro stesse, hanno un 25% in meno del PIL, del fatturato, e gli investimenti esteri in un paese altamente corrotto scendono del 16% e fanno aumentare del 20% il costo degli appalti. Su questo ci aspettiamo anche un'iniziativa forte del governo Renzi, c'è il decreto di cui molto si discute. E ancora l'Italia è il paese dell'area euro dove è più diffuso il livello di percezione della corruzione. Quali sono gli altri passaggi che ha toccato Squittieri? Si è occupato anche delle condizioni della nostra economia, ma tu hai acquisito anche altri passaggi proprio sul rischio che questo paese sostanzialmente accetti, venga assuefatto dal malaffare. Vincenzo. Assolutamente, è così, la base di partenza è quella che ricordavi. Squittieri mette in evidenza come il perdurare della crisi metta in evidenza la congiuntura negativa e la corruzione, parlando quindi di circolo vizioso, ma cosa fare, come uscire da questo stallo. Il pericolo proprio è che in questo modo si possa allontanare la speranza di poter trarre nuovo impulso dall'azione pubblica. Il pericolo più serio e quindi è una rassegnata assuefazione al malaffare visto come un male senza rimedi. Ascoltiamo quindi Squittieri su questo passaggio. Le crescenti difficoltà gestionali connesse al perdurare della crisi e del ripetersi di fenomeni di mala gestione e di corruzione che pensavamo di aver lasciato alle spalle rischiano di inclinare oggi non solo il rapporto tra cittadini e classe dirigente del Paese, ma la stessa speranza di poter trarre dall'azione pubblica un nuovo impulso per il ritorno su livelli di crescita soddisfacenti. Il pericolo più serio per la collettività è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto come un male senza rimedi. Non possiamo permettere che questo accada. Non possiamo lasciare che prenda forza l'idea di una società incapace di compiere scelte collettive, di perseguire a livello di amministrazione pubblica obiettivi concreti e di garantire un sistema di servizi efficienti e sostenibili. È pertanto prioritario riorganizzare le strutture dello Stato, puntando a che queste rispondano con rapidità e trasparenza ai bisogni dei cittadini. E questo è il metro su cui la Corte e noi tutti dovremo misurare il successo del nostro operato. Rendere spedita e trasparente l'azione pubblica, vigilando sulla coerenza dei risultati con gli obiettivi proposti, intervenire sui comportamenti illeciti, fornendo risposte credibili alle attese dei cittadini, già fortemente provati dall'incertezza e del difficile periodo che l'Italia e più in generale l'Europa sta attraversando. E poi l'allarme della Corte dei Conti sulle spese pazze, o meglio, le spese irregolari che impazzano in alcune nostre regioni. Il primato va al sud, pesano la criminalità, il ritardo dell'economia e aggiungo io anche un'assenza in alcuni casi quasi totale di educazione civica, di doveri di qualunque cittadino, a maggior ragione se è un amministratore della cosa pubblica. E questo vale per il sud e passa anche per l'educazione che si dà in famiglia, diciamocela tutta, dai. si cresce male fin da bambini con certi genitori e anche in alcune parti del centro-nord Italia. Allora, dicevamo del Presidente della Corte dei Conti, primato negativo per le regioni nelle spese irregolari, le regioni, allora poi un giorno faremo anche un ragionamento sul federalismo. Il federalismo si basa su un grandissimo senso civico, e così faccio anche un elogio alla Germania, tenetevi forte. In Germania il federalismo funziona perché ci sono dei cittadini che hanno un grosso rispetto anche della cosa pubblica, non solo lì, per carità. Il federalismo in un paese in cui non si rispetta la cosa pubblica diventa portare su base regionale e locale la corruzione di carattere nazionale. Dice la Corte dei Conti, due terzi delle spese irregolari della pubblica amministrazione che finite sotto la lente della Corte dei Conti fanno infatti riferimento agli enti territoriali e in particolare alle regioni del sud che da sole arrivano al 60% delle irregolarità. Qui non è un problema di leghismo, poi visto che Salvini pure non è nemmeno più antimeridionale. Il problema non è mettersi la felpa con scritto parere, il problema è che i dati ti dicono che il malaffare c'è, ma il malaffare di chi amministra le regioni del nostro Mezzogiorno rappresenta il 60% di tutte le irregolarità rilevate dalla Corte dei Conti. C'è chiaramente la presenza sul territorio della criminalità organizzata e un ritardo nella crescita economica. Io aggiungo anche un po' di cultura, secondo me, su questo. Nell'ambito dei fondi strutturali, la spesa irregolare è quello sul Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, 18 milioni di euro di truffe, di spese irregolari. Le regioni nelle quali si registrano i maggiori importi sono la Calabria 7 milioni e 7, la Campania 3 milioni e 3, la Toscana, qui come vedete la classifica è in pietro, 2 milioni e 4, e la Sardegna 2 milioni e 3. E poi Squittieri ha anche detto, Vincenzo, che è negativo e un rinnovo e la proroga delle concessioni, ho capito bene? Sì, è così. Praticamente tra i principali ostacoli alla trasparenza, e laddove non c'è trasparenza evidentemente c'è corruzione, dice Squittieri, c'è l'abitudine tutta italiana a continue proroghe nell'affidamento di servizi e forniture all'interno della pubblica amministrazione. Quindi secondo la Corte dei Conti è necessario dire basta al fenomeno diffuso delle ripetute proroghe e rinnovi nell'importante settore dell'attività negoziale pubblica. E abbiamo preso proprio questo passaggio di Squittieri che possiamo ascoltare. Di qui l'esigenza assoluta di assicurare trasparenza e regolarità nelle varie gestioni attraverso procedure pubbliche che garantiscano un'effettiva parità di posizione tra tutti gli operatori. Ritengo riguardo negativo il fenomeno diffuso delle ripetute proroghe e rinnovi nell'importante settore dell'attività negoziale pubblica, atteso che l'affidamento per periodi lunghi allo stesso soggetto di opere, servizi o forniture non sempre risulta corrispondere a canoni di efficienza, trasparenza ed economicità, anche generando alterazioni del regime concorrenziale, sempre più peraltro tutelato dal diritto comunitario. Allora, grazie a Vincenzo Miglietta. Squittieri ha parlato anche del quadro economico, ma sarà il nostro tema nella seconda ora del programma. Ha detto che l'iniziativa di Draghi sul quantitative easing, il ribasso del petrolio e una maggiore flessibilità sono elementi positivi in un quadro che resta fragile. Andiamo verso la borsa, allora, più 1,76% la chiusura più di Milano, più 0,96% Parigi, più 0,85 Francoforte, Londra meno 0,12, gli Stati Uniti più 0,40 sul Dow Jones. Molto bene oggi Telecom Italia, più 5,16% e anche il gruppo delle banche, Mediobanca più 4,40, Intesa San Paolo più 4 e ancora Unipolsai più 2,80, Ubibanca più 2,40%. Molto forte anche oggi Fiat più 3,40, alcuni titoli del lusso, Salvatore Ferragamo più 3,60, Luxottica più 2,50 3,5%. Bene, infine, Steam Microelectronics più 3,30%, Atlantia, l'ex autostrade, più 3,13% e Finmeccanica più 2,90%. Tra chi invece ha perso, cito Tenaris meno 3%, Saipem meno 1,50% e la Popolare Emilia Romagna più 0,40%. I migliori e i peggiori li diamo subito, così dopo il GR24 faremo il commento con l'operatore di borsa. Eukedos più 21,28%, Sintesi più 16,28%, AF più 13%. I peggiori invece: Edes meno 13%, Neurosoft meno 7,20%, Ambro Mobiliare meno 4,80% e Biancamano meno 4,20%. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della borsa e ricordavamo che, come spesso facciamo, ogni tanto il commento lo chiediamo agli operatori di borsa. Milano meglio della media delle borse europee grazie, come ricordavamo prima citando i titoli, soprattutto alle banche e anche a Telecom Italia. Ieri è arrivata in serata la notizia che il fondo, il più grosso fondo di investimento BlackRock, è salito al 6% nel capitale di Telecom Italia, è arrivata verso 19, una cosa del genere, a mercato ampiamente chiuso. Per quello che riguarda Fiat, che va molto bene, più 3,40%, oggi New York ha confermato Sergio Marchionne la quotazione in borsa del 10% della Ferrari e ha confermato che potrebbe venire entro il terzo trimestre dell'anno. Quindi il titolo poi appunto guadagna Fiat Chrysler il 3,40%. Ebbene, tutte le banche, da qui vorrei partire, o quasi tutte le banche, tranne la Pop Emilia Romagna che perde lo 0,46%. Da qui vorrei partire, dicevo, con per il commento di borsa con Filippo Diodovic, strategist di IG Market Italia. Buonasera. Buonasera. Le banche, allora, Intesa ha diffuso i conti, l'utile è 1,7 miliardi nel 2004, il dividendo è 1,2 miliardi, Intesa San Paolo, cedola di 7 centesimi per le azioni ordinarie e di 8,1 centesimi per il risparmio, e il numero 1 Messina ha confermato l'obiettivo di 2 miliardi di dividendi quest'anno. Il titolo, insomma, più 4%. Le altre banche? Sì, le altre banche, diciamo, bene, come abbiamo detto, Intesa è stato sicuramente quello che ha sorpreso di più anche questo aumento del dividendo sopra le attese. Molto bene anche Mediobanca, che ha battuto, diciamo, anche qui le aspettative di noi analisti, e questo sicuramente ha portato un ulteriore acquisti su un settore che è già, diciamo, favorito dal quantitative easing della BCE, ma anche, diciamo, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda il comparto dei popolari, dalla prossima riforma che entrerà in vigore. A chiusura di borsa sono usciti anche, diciamo, i dati di altre banche come Banca Popolare di Milano, che hanno evidenziato ulteriori, diciamo, dati positivi. Si parla di un dividendo per Banca Popolare di Milano, di un ritorno al dividendo per Banca Popolare di Milano. Quindi, diciamo, ulteriore positività, sempre in attesa poi, ecco, diciamo, dei market mover generali di domani, soprattutto sulla Grecia e sull'Ucraina, che potrebbero portare magari turbolenze sui mercati. Devo dire che, nonostante le sofferenze record del mondo bancario, ma non è una critica, l'utile è stato il migliore dell'attesa, come lei ricordava, per la Popolare di Milano, per Intesa San Paolo, che tra l'altro ha diffuso una stima sul 2015 di crescita ulteriore dell'utile. Quindi, insomma, vediamo di capirci. È vero che le sofferenze bancarie, quindi i crediti che non sono più esigibili, sono a record. È anche vero che gli utili sono migliori del previsto, quindi forse qualche margine in più c'è, lo dico con massimo rispetto. La banca che faccia utile è giusto e deve farlo per i suoi azionisti. Forse la situazione non è dappertutto così critica, ecco, mettiamola così. Ancora, per quello che riguarda l'andamento del mercato, abbiamo visto muoversi bene il lusso con Ferragamo più 3,60, Yux tra virgolette più 2,80, tra virgolette come lusso in senso stretto, e poi Luxottica più 2,50%, Tod's più 2,12%. Ogni tanto il mercato riscopre l'euro debole? Sì, diciamo che il settore lusso è uno che è più avvantaggiato dell'euro debole. Questo ritorno di acquisti su questo comparto è proprio legato alla debolezza del cambio euro-dollaro. Ricordiamoci come siamo su livelli molto bassi e noi ci aspettiamo ancora un ulteriore ribasso, soprattutto quando poi interverrà proprio il quantitative easing, quindi a marzo. Quindi ci aspettiamo un euro-dollaro che può ritornare veramente sulla parità entro, diciamo, 6 mesi, e questo potrebbe favorire notevolmente le imprese legate alle esportazioni e chiaramente il settore del lusso. Per quanto riguarda il settore del lusso, c'è un driver che potrebbe essere negativo nei prossimi giorni, che è quello sul mercato russo, perché il mercato russo, se domani non si riuscisse a trovare un accordo riguarda, questo potrebbe portare un po' qualche vendita, qualche presa di beneficio sul settore. Sì, anche lei, come oggi è emerso dal G20, adesso ne parleremo, giustamente ricordo come c'è la Grecia, che è un tema delicatissimo per noi nell'area euro. E appunto leggevo prima della chiusura della prima ora le dichiarazioni non certo confortanti di Weidmann e Schäuble, contrarissimi a concedere 6 mesi in più ad Atene. Vabbè, io invece direi che bastassero 6 mesi in più ad Atene, glieli darei subito pur di chiudere la parità greca, però tornerò dopo sulla Germania o sui temi europei. E poi c'è la vicenda ucraina, che ha una ripercussione forte anche di carattere economico, ci mancherebbe, pur essendo in primo luogo una vicenda in cui sono coinvolti civili oltre che militari e di carattere geopolitico. Per quello che riguarda invece gli altri titoli, ricordavamo prima del GR24, Tenaris, c'è un motivo per cui cede il 3%, poi abbiamo visto anche debole Saipem -1,50, Eni -0,20. Diciamo ci sono state delle vendite sugli energetici generalizzate, un po' legate, diciamo, da un avvio di settimana per le quotazioni del petrolio, che sono ritornate, diciamo, un po' a scendere. Bisogna dire che le ultime 2 settimane il petrolio era tornato a salire quasi del 25% dopo i forti ribassi degli ultimi mesi. Però ecco, questo avvio di settimana con delle notizie un po' ribassiste sul petrolio hanno riportato un po' di paura. Sì, Tenaris si muove molto col petrolio, spiego perché, fornisce le pipeline, come si dicono, adesso non mi viene la parola, l'oleodotto, ecco, costruisce, diciamo, l'infrastruttura per gli oleodotti, e quindi non è strano che si muova, forse è strano che amplifichi così tanto il calo di Eni e di Saipem. Per quello che riguarda l'euro siamo a quota 1,1325, e quindi grazie anche a lei, grazie quindi a Filippo Diodovic, strategist di IG Market Italia. Allora, andiamo a Istanbul, non prima di aver risposto a 2 dei vari messaggi di tenore opposto. Uno mi scrive: Barisoni, segretario della Lega Nord. No, guardi, ce n'ha già uno che ha anche cambiato atteggiamento sul sud. E poi Barisoni, come fa a dire che al sud non c'è senso civico in tutti i cittadini, e generalizzare? Allora, nessuno, Gregorio da Catanzaro o da Cosenza, non capisco, nessuno sta generalizzando. Abbiamo solo detto che c'è, parlando di federalismo, il federalismo funziona quando c'è un alto senso civico, un'alta assunzione di responsabilità, per cui non vai a trasportare, come invece denuncia la Corte dei Conti, su base locale, regionale, comunale, provinciale, gli stessi difetti e vizi di corruzione che avevi su base nazionale. E il riferimento al senso civico che va insegnato nelle scuole, siamo d'accordo, ma soprattutto in casa, ecco perché ho detto forse, il fatto che al sud, non tutti, ma ci mancherebbe, però questo senso civico ci sia meno, non che sia solo presente al nord, era il commento a quanto riferito oggi dal procuratore generale della Corte dei Conti, che ha detto le regioni del sud da sole arrivano a rappresentare il 60% di tutte le irregolarità rilevate, mentre a livello regionale, e i 2/3 delle irregolarità rilevate dalla Corte dei Conti appartengono agli enti territoriali e in particolare alle regioni del sud. Ora, questo vuol dire che c'è una cultura, se si può usare questo termine, antistatale, antirispetto della legalità, che è più diffusa, non diffusa solo o totalmente, ma più diffusa al sud che al nord. Mettiamoci il cuore in pace e iniziamo a lavorare anche sull'educazione che si dà, perché poi è facile fare discorsi quando poi il figlio insegni a essere furbo e che c'è sempre una scorciatoia per arrivare a un obiettivo. Non esistono le scorciatoie, legalmente parlando. Allora, una notizia di mercato invece che ho dimenticato di dare. Oggi le holding, le finanziarie di controllo della famiglia Marzotto, Zignago Holding e PFC hanno acquistato 5 milioni di azioni di Hugo Boss, cioè il 7% della società. Si istituisce nell'operazione da Mediobanca e dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali. Mediobanca ha fatto l'advisor. Ed è Mediobanca che ha realizzato il finanziamento di 150 milioni di euro a supporto dell'acquisto. Appunto, il 7% della Hugo Boss è, tra virgolette, ritornata alla famiglia Marzotto, a Zignago Holding e a PFC. Allora, la Grecia, sentite un po' che dice, adesso poi arriviamo a tutte le dichiarazioni, no, facciamo così, sentiamo prima che dice il traffico, poi sentiamo che cosa dice chi ha la responsabilità del debito per una banca d'affari importantissima in Francia e anche a livello europeo, la Lazard, quindi non un pericoloso comunista alla Tsipras, sulla possibilità che la Grecia tagli il debito di 100 miliardi. Connaît une crise humanitaire comme l'Europe n'en a jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La cure d'austérité. La Grecia sta conoscendo una crisi umanitaria come l'Europa non ha mai conosciuto dalla Seconda Guerra mondiale. La cura di austerità imposta alla Grecia dalla Troika ha portato a un vero disastro che ha aggiunto sofferenza e altra recessione alla recessione stessa. È comprensibile la reazione dei greci di qualche settimana fa, con il loro voto che esprime dignità e fierezza. La Merkel non è la Troika e la Troika non è la Merkel. Credo che le politiche portate avanti dalla Troika siano sbagliate, che abbiano portato la Grecia al disastro e anche l'Europa rischia lo stesso. La situazione è tale che occorre trovare una soluzione. Ogni Stato europeo sa che il debito greco è oggi insostenibile. Al ritmo attuale ci vorrebbe almeno un secolo per estinguere il debito della Grecia. È chiaro allora che uno sforzo è assolutamente necessario. I negoziati sono in corso, vedremo quale sarà l'ammontare di debito cancellato. Si vedrà il modo in cui sarà effettuata la cancellazione, perché si può appunto cancellare una parte del debito o alleggerirlo in modi diversi. La cifra che ho fornito di 100 miliardi è quella che permette di raggiungere l'obiettivo definito dalla Troika del rapporto debito-PIL del 120% nel 2020. È un obiettivo che mi pare ragionevole e che permette di portare la Grecia in un percorso sostenibile. Permet de ramener la Grèce dans un chemin qui me paraît soutenable. Oh, chi lo dice? Lo dice Alexis Tsipras? No, lo dice Varoufakis? No, lo dice Pablo Iglesias, il leader di Podemos in Spagna? No, lo dice Mathieu Pigas, che per la banca d'affari Lazard, che è insomma un po' la Mediobanca, era la Mediobanca francese, forse un po' è anche un po' una diminuzio, rappresenta e cura tutta la gestione del debito greco. Allora, quindi, se lo dice un banchiere sostanzialmente, che ci vogliono 100 anni a ripagare questo debito in queste condizioni, che la Grecia ha la fame, che è in ginocchio, ma l'hanno tradotta in tedesco sta roba, spero, no? Perché voglio dire, è inutile poi dire ma i patti vanno rispettati. Abbiamo appena spiegato che questa cosa non è avvenuta per la Germania dopo che aveva causato la Seconda Guerra Mondiale, oltre che la prima, ok? E si è capito che era inutile schiacciare e umiliare i tedeschi nel 53, è inutile schiacciare e umiliare i greci, anche perché tanto non li vedi sti soldi. Ma evidentemente l'intervista non è stata ancora tradotta in Germania, visto che Schäuble dice che è un errore concedere 6 mesi ad Atene. 6 mesi. In realtà il timore, secondo me, è che ha paura la Merkel e Schäuble che questi 6 mesi servono poi ci sono le elezioni in Spagna. Se vince in Spagna Podemos, la Germania è sempre più nell'angolo. E poi voglio vedere Matteo Renzi, quando tu hai la Spagna verso Podemos, la Grecia con Tsipras e anche Hollande, se non iniziano a capire che il solo appoggio alla Germania non porta da nessuna parte. Infatti già si stanno muovendo in questo modo. Ancora per quello che riguarda il senso civico, mi scrive un ascoltatore: non è solo insegnare a non sputare per terra, pagare tasse, è anche insegnare che se le tasse sono troppo alte ci si può rifiutare di pagarle. E chi lo decide quando sono troppo alte? E chi decide quando violare la legge? No, il senso civico, guardi, è rispettare la legge, punto e basta. Rispettare il bene pubblico, capire che il bene è pubblico perché dopo di te arriva qualcun altro, non fregare sempre il prossimo e dare al termine furbo un'accezione negativa e non un'accezione positiva, come avviene in questo paese. Comunque, andiamo troppo in là, se no col tema. Invece vorrei ringraziare per averci raggiunto in collegamento Alessandra Lanza, che è appunto responsabile delle strategie industriali di Prometeia. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Perché oggi, a margine del G20 a Istanbul, il nostro ministro Padoan ha detto: l'Italia sta accelerando in tutta l'area euro, c'è un'accelerazione anche in Italia. La produzione industriale a dicembre ha fatto più 0,1. Voi avete pubblicato assieme a Intesa San Paolo il rapporto sui settori industriali. Vi risulta questa leggera, per ora timida, per ora ancora parziale, accelerazione? Sì, certamente sì, ci risulta. È una tendenza che noi pensiamo andrà a consolidarsi nei prossimi mesi. Il dato di dicembre diffuso oggi dall'Istat è molto influenzato per circa un 30% da un recupero del settore auto. È un settore che noi vediamo continuare a performare bene in corso d'anno. I dati su gennaio del solo settore auto confermano questa tendenza, soprattutto per quanto riguarda la componente dei noleggi, che ha un doppio effetto positivo, e cioè viene sostenuta sia da fattori macroeconomici esterni come la debolezza dell'euro, sia da un recupero del settore che aveva sofferto incredibilmente, era tornato indietro sui livelli di circa 30 anni, ma sia anche, per quanto in una sola componente, dal andamento dell'Expo. Questi sono tutti fattori che noi pensiamo continuino nei prossimi mesi e che facilitino il percorso di recupero anche sul resto della filiera, sia auto ma anche degli altri durevoli e dei beni intermedi. Il fatto che ci sia un recupero complessivo della domanda fa sì che probabilmente ritorni la fiducia delle imprese e si torni ad investire. Le imprese non investono e non hanno investito negli scorsi anni non soltanto, come si è spesso detto, per un tema di restrizione del credito bancario, ma molto perché avevano di fronte a sé una domanda eccedente. Quindi il fatto che la domanda torni in territorio positivo è una condizione sine qua non perché le imprese tornino ad investire. Allora, dunque, per quello che riguarda il vostro rapporto, anche voi appunto date uno scenario leggermente positivo, più positivo per la ripresa sostenuta delle esportazioni, come lei ricordava. Dite che non è solo merito dell'euro debole, vorrei che lei mi spiegasse meglio quali altre componenti, a partire dall'Expo. E infine, mi sembra che forse la cosa più nuova, la notizia, sia la ripresa del mercato interno. Se mi risponde agli altri segnali, agli altri elementi oltre all'euro debole e anche al mercato interno, grazie. Certo. Allora, l'euro debole è certamente una componente, lasciatemi dire, minoritaria, perché le nostre esportazioni verso paesi verso cui l'euro si è indebolito sono circa il 30%, quindi non si spiegherebbe il resto del recupero soltanto con la debolezza dell'euro. Ci sono segnali positivi che vengono dal mercato interno. Il mercato interno comincia finalmente, seppur debolmente, ma comincia finalmente a essere sostenuto in primo luogo dall'Expo, in secondo luogo dal recupero di potere d'acquisto conseguente alla tendenza deflazionistica in atto e al forte calo dei prezzi dei carburanti, e anche alle misure fiscali leggermente espansive che hanno aiutato le famiglie a recuperare, per quanto ancora nella difficoltà, una parte di potere d'acquisto. Il mercato potrebbe essere anche più positivo di quello che noi immaginiamo se l'afflusso di turisti stranieri per Expo dovesse confermarsi molto sostenuto e ovviamente contribuire a rilanciare sì. I consumi nazionali. E quindi da lì lei dice, però mi faccia capire per concludere, visto che siamo in chiusura, un mercato interno e quindi i consumi interni che vanno un po' meglio grazie ai turisti? No, consumi interni che vanno un po' meglio grazie a un forte calo dei prezzi dei carburanti, sì. Un calo generale dei prezzi e misure fiscali espansive. Poi okay. C'è anche il contributo poi c'è la, sì, che però adesso non è che l'Expo è importante, è importantissimo, non carichiamo l'Expo di troppi. No, assolutamente, di troppi, è uno dei tanti fattori. Se devo ripartire i consumi con l'Expo è la fine. No, sono d'accordo, ho capito, e quindi attenzione, sì, l'euro è importante, ma ci sono tantissimi altri elementi, e poi faccio notare che il rapporto è consultabile anche su internet. Voi prevedete un aumento delle esportazioni del 18% diffuso a tutti i settori tranne l'elettronica e la metallurgia, con farmaceutica e sistema moda che faranno un più 4% e poi a seguire anche gli altri. Grazie appunto al Centro Studi Prometei nella persona di Alessandra Lanza. Da Sebastiano Barigione è veramente tutto, vi auguro buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.